La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Con l'articolo 24 passiamo alla tutela giurisdizionale, quindi passiamo a quegli articoli che riguardano l'agire in giudizio, 24, 25, 26, 27, ma riguardano la giustizia dal punto di vista soggettivo, dal punto di vista quindi della persona. Come si apre l'articolo 24? Garantendo a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Quindi la garanzia massima che tutti possono andare da un giudice terzo ed imparziale che possa giudicare i propri diritti e interessi legittimi. Va fatta questa distinzione un po' professorale fra diritti e interessi legittimi, perché i diritti, che sono i diritti soggettivi, sono quelli che una persona ha in genere rispetto alle altre persone. Se Tizio mi deve 1000 euro, io ho il diritto ad avere quella prestazione, quella somma, i 1000 euro. Gli interessi legittimi invece sono tipici del cittadino rispetto e nei confronti dell'azione della pubblica amministrazione. Facciamo un esempio di un concorso pubblico. Io ho il diritto a partecipare al concorso perché il cittadino ha diritto, avendo nei requisiti età, titolo di studio, ad essere ammesso al concorso. Non ha certo il diritto a vincere il concorso perché la vittoria del concorso sarà garantita ai meritevoli e bravi. Ma allora nell'ambito del concorso il cittadino che cosa ha? Ha un interesse legittimo. Che cosa significa? Interesse alla legittimità dell'azione amministrativa. Quindi ho l'interesse a che il concorso sia svolto in maniera giusta, regolare ed imparziale. E se quindi ho dei dubbi che il concorso non ha avuto un esito regolare, impugnerò, ma non per avere il diritto a vincere il concorso, ma l'interesse legittimo, quindi affinché un giudice possa controllare che il concorso si è svolto legittimamente. Ecco allora che normalmente si agisce per tutelare i diritti davanti ai giudici civili, mentre si agisce per tutelare l'interesse legittimo davanti ai giudici amministrativi, TAR e Consiglio di Stato. Ma l'articolo 24 ci dice di più. L'articolo 24 garantisce anche al secondo comma la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Anche questa è una garanzia molto importante perché garantire la presenza del difensore in ogni stato e grado significa ad esempio che anche nelle fasi precedenti al processo, come un interrogatorio, ciascuna persona ha sempre diritto a chiamare il difensore, che è garanzia di imparzialità e trasparenza di qualunque azione giudiziaria. E lo Stato, terzo comma, assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti alla giurisdizione con appositi istituti, è il cosiddetto patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio, per cui i non abbienti possono avere delle forme agevolate per pagare l'accesso alla giustizia, non pagando tasse e contributi, ma anche avendo degli avvocati pagati dallo Stato per tutelare le proprie posizioni. Anche qui la Costituzione cerca sempre di parlare e di guardare a tutti, e quindi non solo agli abbienti, ma soprattutto ai non abbienti, perché deve garantire a tutti la piena partecipazione e la piena tutela. Ultimo comma, la riparazione degli errori giudiziari. Sappiamo che purtroppo anche la giustizia può sbagliare e quindi lo Stato assicura un risarcimento, un pagamento di questi errori. Ma c'è garanzia costituzionale. Quando c'è garanzia costituzionale significa che il legislatore e l'autorità non possono fare a meno di dare piena attuazione. Quindi a fronte di un errore giudiziario, il diritto a essere risarciti è posto già in Costituzione.